mi stavo proprio buttando via. Dopo l'intervista verità di Antonio Cassano, in cui il fuoriclasse Doriano rivela alla Gazzetta dello Sport di essersi fermato appena in tempo, il brasiliano Ronaldinho esce allo scoperto con una dichiarazione che inquieta tutto lo staff del Milan. Fermi tutti, adesso tocca a me.